Allora, se non sbaglio, potete correggermi, ma è venerdì, appunto. È martedì 28 di maggio, inizia a fare finalmente un gradevole calduccio in questo maggembre dove si è rovesciata più acqua che in un anno intero. E siamo qui di nuovo a Le Parole per Dirlo, un pubblico vastissimo, per favore stiamo calmi perché sennò c'è troppa gente, gravi! Madonna, ragazzi. È lo tipico clima da fine della scuola, non ce la facciamo più, non ci stiamo dentro, ma siamo ancora qui col buon Alberto, che finalmente smetterà di sfracassare le palle dal pubblico, ma parlerà lui per un'ora e mezza e dopo sfracasseremo le palle noi a lui, perché lui è il campione mondiale di intervenire dal pubblico. È stata veramente una presenza asfissiante lungo tutto quest'anno di Parole per Dirlo, ma c'è ancora un episodio dopo il suo, quindi lo vogliamo ancora qui su questi mic, poi ne parleremo. E dovrebbe essere, se non parli al microfono però non ti si sente, cioè questo dettaglio particolare della radio è una cosa che non si vede mai. E no, dovrebbe essere il 18 di giugno, ma poi probabilmente verrai arruolato per farlo, per cui preparati. Con cazzo, fai anche la prossima. Niente, la parola di stasera è secondo me una parola meravigliosa e bellissima che cerca di guidare i nostri passi: ideologia. Malgrado tutto, penso ancora che ci sia, diceva Gaber. Piaciuta la citazione così al volo, eh? Non ci avevo pensato prima. Va bene, la parola ideologia, Le Parole per Dirlo, martedì 28 maggio. Prego Alberto, portaci al ludibrio, vai. Grande! Bravo! Grazie di questa occasione, spero di non annoiarvi. Diciamo che cerco di fare questo discorso nei termini più semplici possibili. E anche se in certi passaggi non è facile, ma ci proverò. Cosa faccio stasera principalmente? Seguirò due libri, non solo questi due, perché in verità poi vi citerò brevemente qualcos'altro, ma sono principalmente due libri. Il primo è questo libro di Carlo Galli che si chiama appunto Ideologia, libro che consiglio, libro veramente bello, piccolo ma denso, e partiamo da questo. Da metà in avanti lo intreccerò un pochettino con quest'altro libro che si chiama Dominio, di Marco Deramo, non so l'accento quale sia, quindi vi dico brevemente due cose su di loro e poi comincio. Carlo Galli, non so se qualcuno di voi l'ha mai sentito, comunque era un professore di dottrine politiche a Bologna, all'Università di Bologna, e in pratica è un filosofo politico, credo uno dei più importanti in Italia. E, il libro da cui parto è di questa collana del Mulino che si chiama Parole Controtempo, nel senso che vengono scelte delle parole che sembrano inattuali, ma che poi in verità non lo sono. Questa è l'idea del... Esatto. E questa è l'idea di questa collana che va avanti da un po' di anni. Questo libro è di 2 anni fa, però ha dei riferimenti, arriva fino all'adesso in pratica. Mentre Dominio, un libro anche lui molto recente, del 2020. E Marco Deramo non è un professore, nasce come giornalista, ha scritto il Manifesto tanti anni, sul Manifesto tanti anni, e ha studiato sociologia, e in verità prima fisica, poi sociologia, e di fatto fa il sociologo. Un altro libro bellissimo di Marco Deramo è Selfie, che è un'indagine sul turismo, quella che lui chiama l'era turistica, l'età turistica, e c'entra molto con tutte le cose che vengono toccate un po' da Lucia Tozzi, i discorsi che avete fatto anche qui sulla trasformazione di Milano, l'impatto del turismo sulle città. Partiamo però da Carlo Galli. Allora, ideologia, una parola un po' ovunque, di cui non si capisce bene mai il significato, perché effettivamente è una parola sicuramente con tante accezioni e utilizzata da tanti autori in maniera diversa. Ovviamente il ritornello è sempre che le ideologie sono morte, sono finite, non ci sono più, e spoiler, cosa che non è assolutamente vera, ma credo che ve lo sappiate essendo qui già tutti. E come potremmo definire inizialmente questa parola, al di là della definizione, diciamo, da vocabolario, per cui definizione da Treccani sarebbe una scienza delle idee. Ma che cos'è l'ideologia? L'ideologia, prima di tutto, è qualcosa che rifiuta per se stessa sempre la definizione di ideologia. Cioè, un'ideologia non dice mai, quasi mai, di se stessa di essere tale, ma si presenta come una scienza, come una dottrina, come qualcosa di neutro, ok? Di scientificamente fondato e di tecnico, diremmo, tra virgolette. E secondo me la citazione migliore da cui partire è quella di un politologo, un filosofo francese, che è Aron, che definiva le ideologie in questo modo. Diceva che le ideologie sono le idee dei miei avversari. Nel senso che chi ha il potere, chi ha l'ideologia che sta veramente dominando il mondo, non dà mai questo nome per il suo sistema di idee, ma lo appiccica sempre agli avversari per screditarlo. E questa doppia accezione della parola, per cui dovrebbe essere una scienza delle idee neutra, ma contemporaneamente usata anche quasi in maniera insultante, ha le sue radici proprio dell'inizio, nel Settecento, quando questa parola viene inventata. L'ideologia quindi vive di contrasto con altre ideologie, cioè non esiste un'ideologia che sia lì da sola. Quindi il terreno su cui l'ideologia sta è quella del contrasto e della lotta. Della lotta per cosa? Per il potere, ovviamente. Abbiamo detto già qualcosa, mi ricordo l'incontro sulla filosofia politica che avevamo fatto un po' di mesi fa. Qual è la posta in gioco? Il potere. Carlo Galli, adesso io vi spiegherò un po' brevemente la prima parte di questo libro, che è la più importante per capire che cos'è un'ideologia e che vale per tutte le ideologie, okay? Quindi che cerca di essere di attagliarsi a tutte. Carlo Galli comincia il libro citando le diciture che Goebbels, i ruoli che Goebbels ricopriva durante il nazismo. Cioè Goebbels era contemporaneamente a capo del Ministero del Reich per l'illuminazione del popolo e per la propaganda, che era un ministero, e contemporaneamente era presidente della Camera della Cultura del Reich. Sapete, Goebbels era il gerarca che era a capo della propaganda, diciamo, tendenzialmente, però aveva questi due ruoli. E Galli li cita inizialmente perché da queste due diciture, da questi due titoli, vengono fuori le parole fondamentali che sottostanno ad ogni ideologia. Cioè l'illuminazione, quindi questa idea di illuminare il popolo, la propaganda ovviamente, e poi anche la cultura. Cioè l'ideologia ha questo doppio volto, direi quasi triplo. Cominciamo dalle due facce più grandi, che differenziano l'ideologia dalla filosofia, dalla scienza, possiamo dire. Il primo volto dell'ideologia è appunto l'idea. Cioè si vuole applicare un'idea. Galli dice un sapere orientato, cioè un sapere che non è disinteressato, ma orientato a far qualcosa. E cosa vuole fare questo sapere? Queste idee devono rischiarare il mondo. Se vi è più facile, quando vi dico queste cose di ideologia, immaginatevi il comunismo, va benissimo, no? Non solo il comunismo, ma rischiarare il mondo cosa vuol dire? Togliere il velo che copre la struttura delle cose. Cioè che copre come vanno le cose. E come fa l'ideologia a fare questo? Lo fa con gli ideologhi, quindi i politici diremmo, i politici e gli intellettuali di più alto livello, e con i militanti. E questa prima faccia, che è l'idea, ha la pretesa scientifica, no? Di dire come stanno le cose. Anche qui, se volete immaginare il comunismo, cosa dice Marx? Dice questa cosa. Dice, adesso noi vediamo e vi diciamo come funziona questo capitalismo, no? Nell'Ottocento. Quindi da questo lato la prima faccia è un modo per analizzare l'essere, no? Con razionalità, criticare. Marx diceva la critica di tutto ciò che esiste, la critica feroce di tutto ciò che esiste. E questo è il primo lato. Se ci fosse solo questo, però non staremmo parlando di ideologia, parleremmo di filosofia, di qualcos'altro. Perché la seconda faccia dell'ideologia è l'azione. Non è che possiamo dire le cose, pensarle e farle rimanere pura teoria. Il fine poi ultimo dell'ideologia è la nascita di una nuova umanità, di un nuovo mondo. Quindi la seconda faccia, se la prima faccia era l'idea, la seconda faccia dell'ideologia è l'azione, la forza mobilitante, ok? Che l'ideologia ha e che vuole mettere in campo. Per cui questo sapere, a un certo punto, si deve sporcare le mani, deve entrare nel mondo e deve fare qualcosa, no? Anche qui, se vi viene in mente Marx, i filosofi, anziché solamente pensare il mondo, pensarlo, devono cambiarlo, no? E qua c'è già il primo problema, per cui ovviamente facendo questo, l'ideologia sporcandosi col mondo, essendo orientata all'azione, ha bisogno di semplificare questo mondo, scendere a patti con questo mondo, perché la prima cosa è che si facciano le cose, non che si stia tutto il tempo a pensare. E quindi ha bisogno, per esempio, di simboli che possano motivare le persone a cambiare il mondo. Per cui l'ideologia è l'ideologia dei soli, i fasci, le piante, le croci, un simbolo che ti guida, no? E quindi una prima definizione provvisoria che possiamo dare dell'ideologia è quella di fare le cose con le parole orientate al fare, fare quale cosa cambiare il mondo. Questa seconda faccia però è come se rendesse la prima faccia che sarebbe diciamo più pura, che abbiamo detto che è quella delle idee scientifiche, delle idee che dovrebbero dirci come che tolgono il velo, la rende un po' più dogmatica. La rende dogmatica nel senso la rende un po' propone un dover essere, le cose devono andare così e irrigidisce un po' il tutto. Quindi Galli dice che se questi sono due elementi dell'ideologia, l'ideologia è strutturalmente contraddittoria. Cioè, proprio, anche qua immaginatevi a tutto ciò che è successo al comunismo, alla storia del comunismo di 150 anni, e a tutte le contraddizioni, a tutti i patti con la realtà, immaginatevi Stalin, l'Ungheria, tutte queste cose qui, no? Poi c'è una terza faccia, in verità, no? Che sarebbe anche la prima, nel senso che queste idee e questa azione da cosa derivano? Da delle motivazioni molto terra-terra, cioè da interessi materiali e sociali. Per cui queste idee nascono e poi si mettono in pratica perché ci sono delle cose da cambiare, c'è un movimento sociale reale che nella vita di tutti i giorni. Fino a qui abbastanza chiaro? L'obiettivo quindi qual è l'obiettivo dell'ideologia? Di svilupparsi in queste tre facce per far che cosa? L'obiettivo è l'egemonia. La lotta per il potere per ottenere l'egemonia. Ok? Egemonia culturale. Cosa vuol dire? Arrivare ad orientare la cultura nei termini sia bassi che nei termini alti. Quindi arrivare a orientare il film di Hollywood come le materie che si studiano all'università. Perché vi faccio questi esempi? Perché dopo, tra qualche minuto, portiamo un caso, diciamo, di studio, che è l'ideologia che viviamo noi, che è il neoliberismo o neoliberalismo, e penso che sia più utile vedere un'ideologia nel suo farsi, no? Che poi fare una carrellata storica con tutte le ideologie perché sarebbe stato troppo lungo. Le ideologie non per forza sono totalitarie, nel senso che la maggior parte delle volte sono in concorrenza, poi alla fine una vince, ma comunque ce ne sono diverse. E queste ideologie concorrono con i loro centri. Cioè un'ideologia ha un centro, no? Immaginatevi proprio un nucleo. Questo nucleo è un'idea fondante, anche qui se volete immaginarvi il marxismo, la società divisa in struttura e sovrastruttura, i rapporti, immaginare la società in questo modo, e questo nucleo poi ha una serie di concetti, di corollari, concetti che ci stanno vicino. E il cambiamento di un'ideologia è strutturale, nel senso che ovviamente se abbiamo detto che l'ideologia come seconda faccia è il fatto che deve fare le cose, il mondo cambia continuamente, anche le ideologie non rimangono mai ferme, è normale che sia così. Poi c'è un punto oltre il quale un'ideologia muore, no? Perché se questo nucleo fondante, questa cosa che sta al centro si perde, l'ideologia non c'è più. Oppure, cosa succede? Nascono delle eresie da un'ideologia principale, per cui ci si stacca, fino a quando poi un'eresia viene considerata qualcosa di inaccettabile dall'ideologia da cui è partita e diventa qualcos'altro. E tutto questo che vi ho detto vale per tutte le ideologie, cioè per Carlo Galli poi fa un excursus storico, liberalismo, ovviamente comunismo, poi ve le dico più in dettaglio, però prima di fare questo si concentra su un fatto fondamentale, che siccome le ideologie devono cambiare il mondo, devono avere a che fare con le passioni e con le emozioni, no? Perché tu non mobiliti le persone se le persone non si emozionano. D'altronde poi l'etimologia di emozionare è proprio quella, di muoversi. E perché le emozioni portano all'azione collettiva, se no non c'è nessun cambiamento. Quindi il risentimento, la paura, la speranza, la frustrazione, la disperazione, tutte passioni e emozioni che muovono le persone e fanno cambiare il mondo. Oltre a questa azione, un'ideologia ovviamente, siccome poi deve fare le cose, non lascia le emozioni completamente fluire, poi le irrigidimenta a un certo punto, le blocca. Per cui c'è l'azione, ma c'è anche la coazione, dice Galli, cioè il fatto che poi a un certo punto il partito, che è il soggetto principale, non solo fa muovere le persone, ma poi le blocca anche. E quindi, come vi ho detto, questa contraddizione sta anche nel fatto che c'è la libertà, ma c'è anche la chiusura. A questo punto c'è un problema, nel senso, io come faccio a dire, Carlo Galli come fa a dire tutte queste cose se tutte le ideologie sono storicamente determinate, per cui nascono in una certa, un certo momento, hanno uno sviluppo, come si fa a criticare un'ideologia non partendo da un'altra ideologia, no? Non so se mi faccio capire. Come si fa a dire che il mio punto di vista, come facciamo noi a dire che poniamo il comunismo non è un'ideologia o è qualcosa di meglio del capitalismo, no? E tutti i prodotti culturali, dice Galli, sono socialmente o storicamente determinati. La differenza che lui cerca di porre, ma di cui vi parlo brevissimamente, è quella come si fa a distinguere tra ideologia e filosofia in pratica. Cioè tra ideologia e filosofia barra scienza, c'è un sapere. Lui, la risposta che dà è il pensiero critico, no? Che è una forma di una corrente della filosofia, di cui riparlo dopo quando parlo del neoliberismo. E soprattutto lui dice, per capire bene in verità, no? Come è fatta un'ideologia e vederlo un po' da fuori, bisogna andare a vedere la sua genealogia. Se qualcuno ha fatto filosofia al liceo, si ricorda Nietzsche, la genealogia della morale, quest'idea di andare a vedere la morale, no? Di andare a scavare finché non si trova il fondamento. E quindi per Galli, se abbiamo detto che l'ideologia ha queste tre facce e io devo cercare un po' di capire come vanno le ideologie, devo cercare di trovare una genealogia in queste ideologie, quindi comprendere quando e perché e un pensiero politico in generale tra tutti assume la forma di ideologia, e cioè vedere soprattutto poi a quale bisogno risponde, a quale necessità risponde. Quindi lui dice quale contingenza storica le generate, perché se non si capisce questo non si capisce niente. Ultima nota sulla teoria in generale, cioè per questo discorso che vale per tutte le ideologie, è che Carlo Galli è esperto di pensiero politico moderno, e che con moderno intendo, potete avere in mente proprio la modernità come successione storica, quindi periodo che va dal 400 all'800 più o meno. E in particolare le ideologie sono proprio radicate dalla fine del 700, l'800 e il 900. La modernità, che vabbè, super discorso, si potrebbe andare avanti ore perché poi c'è tutto il discorso, no? Cos'è la modernità, cos'è la postmodernità, dove finisce la modernità e comincia il postmoderno, non usciremmo probabilmente. Una cosa però da tenere in considerazione prima che andiamo avanti: la modernità per Carlo Galli è quel periodo in cui semplicemente la politica è potenzialmente non ha un fondamento suo, per esempio come nel Medioevo era la religione, questa cosa non c'è più, e quindi la politica all'estremo è conflitto che potrebbe distruggere tutto, perché la modernità da cosa nasce? La cesura grandissima, le guerre di religioni, distruzione totale, tutti contro tutti, e quindi c'è questo spettro sotto che è quello che tra l'altro motiva Hobbes a scrivere quello che scrive, perché Hobbes scrive quello che scrive, Leviatano e bla bla, perché sa benissimo che c'è questo spettro sotto, perché è come se alla modernità mancasse un fondo, il fondo che nel Medioevo era la religione, nella modernità non c'è più, piano piano ovviamente, non è... Comincia poi questo, se tutto è chiaro, se posso andare avanti, e comincia poi questo excursus, questo tragitto storico in cui ovviamente Galli un po' parla di tutti i grandi pensatori che hanno usato il termine ideologia, in che accezioni l'hanno usato, cosa volevano dire. Non possiamo farlo, no? Perché sennò diventerebbe tutto lunghissimo. Vi dico solo che quando compare questo termine, a fine del Settecento, un filosofo francese, d'Estude de Tracy, ha quest'idea di dire: adesso noi facciamo la scienza delle idee, andiamo a vedere le idee scientificamente come nascono, una cosa molto simile al positivismo, se l'avete fatto anche questo al liceo, e con quest'idea di arrivare ad avere una lingua in cui ogni idea corrisponde un segno, chiaramente, e non c'è dubbio, e allora non ci possiamo più sbagliare. E infatti lui dice: l'ideologia dovrebbe essere una branca della zoologia, addirittura, per la chiarezza a cui mirava. E lui è il primo che utilizza il termine. Cioè, prima ideologia non esisteva come termine, lui a fine Settecento, negli anni della Rivoluzione Francese, lo scrive, e loro fanno una brutta fine, nel senso che lui e il suo gruppo di intellettuali con cui studiava viene prima incarcerato da Robespierre, poi preso a malaparole da Napoleone, che dice: questa roba qua che voi state facendo non ha senso, perché la politica non si fa così, e vabbè. Quindi questa parola rimane lì per qualche anno, poi viene ripresa da Marx, perché Marx con Engels scrive l'ideologia tedesca, perché prima c'è stato Hegel, e l'ideologia tedesca, vabbè, in cui usa il termine essenzialmente in maniera negativa, no? Quindi quest'idea che l'ideologia è qualcosa che copre la realtà, perché quella sarebbe l'ideologia capitalista, Marx dice l'ideologia capitalista copre la realtà, non ci fa vedere, e riprende il termine. Poi ci sono altri pensatori su cui non posso fermarvi, quindi Mosca, Pareto, che parlano dell'ideologia, Mannheim, e poi nel Novecento ci si divide in due parti, nel senso che c'è il lato molto filosofico che parla dell'ideologia, cioè Nietzsche, Heidegger, Hannah Arendt, Carl Schmitt, e poi il lato un po' più pratico, che sarebbe lo sviluppo del pensiero marxista, cioè Gramsci, che ho citato prima, Althusser e Adorno. Quali sono quindi queste ideologie? Cioè, se abbiamo detto che le ideologie hanno queste caratteristiche, e se la parola usata da questi filosofi, poi dove si incarnano queste ideologie? Nell'Ottocento e nel Novecento. Nell'Ottocento il liberalismo, la democrazia, che è un'ideologia, col libro di Luciano Canfora recente, tra l'altro. Il socialismo, ovviamente, perché nell'Ottocento ancora si usa la parola socialismo. E poi, anche qua vado avanti, non dico nulla perché non abbiamo tempo, il Novecento. Cioè Galli fa una ripartizione interessante del Novecento con le ideologie che arrivano attraverso le rivoluzioni. perché ci sono quattro rivoluzioni che portano al potere quattro ideologie, e sono ovviamente la prima il comunismo, no? Prima guerra mondiale, rivoluzione comunista, comunismo sovietico, poi rivoluzione fascista, e quindi ideologie non uguali, che sono il fascismo e il nazismo, e poi dopo la guerra la terza rivoluzione è la liberal socialdemocrazia, cioè il fatto che la democrazia è una cosa acquisita principalmente per la vittoria militare americana, cioè impiantata dagli americani, diciamo, in Europa. E ci sono questi 30 anni che in storia contemporanea vengono definiti 30 anni gloriosi, in cui c'è un equilibrio particolare, per cui per 30 anni c'è un grosso regime comunista fuori dall'Europa, la guerra fredda, e 30 anni in cui per tantissime ragioni coesiste una forma di capitalismo diversa da quella che stiamo vivendo noi, che potremmo chiamare liberal socialdemocrazia, dipende chi è il potere, in Svezia socialdemocrazia, in Italia liberal democrazia, e in cui succedono una serie di cose, principalmente il benessere sale, la disoccupazione scende, fino al 73. Perché 73, poi è sempre l'anno, alla fine quando si leggono sti libri, anche altri libri, poi si arriva sempre al 73. Perché 73 è l'anno della quarta rivoluzione, che porta all'ideologia attuale, no? Quindi neoliberismo. Quindi io adesso ho finito la prima parte, se non ci sono domande, e vediamo, cioè queste strutture che abbiamo visto, cioè queste caratteristiche dell'ideologia, nel farsi di un'ideologia, che è il neoliberismo, che è quella che viviamo noi, quindi è anche più interessante piuttosto che vederla sul fascismo o sul comunismo sovietico. Però è tutto chiaro? Sì, ma solo una domanda. Vai. Ma cristianesimo e le grandi religioni monoteiste sono ideologie o no? No, questa è interessante perché appunto lui all'inizio dice, e l'avevo segnato, mi sono dimenticato di dirlo, cioè che noi da che punto di vista vediamo l'ideologia, lui dice in questo libro, solo dal punto di vista politico, ok? La frase esatta, me l'ero segnata, se te la dico, me la sono dimenticata, vabbè. Perché esistono, quelle sono ideologie, no? Per esempio anche l'islamismo ha una connessione con la politica, è un'ideologia, no? Però lui dice, vediamo se è il lato politico. Quindi 73, il neoliberismo, la quarta rivoluzione. Nel 73 il mondo come è diviso principalmente ancora, ci sono da un lato le liberal democrazie come l'Italia, nei paesi dove vincono i partiti socialdemocratici le socialdemocrazie, non so, lo Palme tipo in Svezia, e i comunismi ovviamente dall'altro lato. E cos'è questo Galli, questo vi cito testuale, cos'è il compromesso, questi 30 anni che si possono chiamare compromesso socialdemocratico? La coesistenza del capitalismo con, lui dice, la capacità della politica di non lasciare il campo del tutto libero. Per cui ovviamente quello che avviene, che cos'è, per tantissime ragioni, una ragione tra tutte è il fatto che c'era un conflitto sociale abbastanza strutturato e forte, e il campo non è libero. Un'altra ragione è che non esiste ancora l'informatica, quindi la deregolamentazione dei capitali e il movimento dei capitali in tutto il globo terracuo non è possibile, no? Tante ragioni. Fatto sta che il capitalismo viene un po' compresso, viene un po' tenuto. E nel 73 succedono un po' di cose, tipo il Cile, la guerra del Kippur, la cosa fondamentale sono gli accordi di Bretton Woods, cioè l'uscita dagli accordi di Bretton Woods. Ora, se questa parte, io so che quando si fa storia, poi alla fine si fa sempre in quinta liceo in due secondi, si dicono, ah sì, poi hanno fatto Bretton Woods, vi suona, no? Credo. Mettersi in giro tutti. Sì, tu, ok. L'ordine economico durante questo compromesso socialdemocratico che cos'era? Un ordine incentrato ovviamente sull'America che ha vinto la guerra e che nel 44 dice va bene, adesso noi regolamentiamo l'economia mondiale utilizzando il dollaro come centro, creiamo il Fondo Monetario Internazionale, tutti gli organismi internazionali che regolano gli scambi, l'economia, e noi ci facciamo carico di tutto questo. Il dollaro è convertibile, cioè vuol dire che a un certo punto se una persona ha dei dollari e vuole che gli siano date indietro delle once d'oro lo può ancora fare, ok? So che sembrano cose tangenziali ma non lo sono. E, nel 73 Nixon, il presidente degli Stati Uniti, e fa una roba incredibile che non era mai esistita nella storia dell'umanità, da quando esisteva la moneta, dice questa convertibilità è finita. Perché siccome gli Stati Uniti avevano speso tantissimi soldi per fare la guerra in Vietnam, e l'inflazione stava aumentando molto, tra l'altro l'inflazione insieme alla stagnazione, infatti si chiama stagflazione questo periodo, e questa cosa provoca delle tensioni internazionali, per cui dopo si sa che alla fin fine non è vero che gli Stati Uniti possono ridare il dollaro e la valuta principale, non è vero che possono ridare indietro a chi vuole in oro, perché non hanno abbastanza oro. Cioè, Fort Knox, avete presente, no? Cioè, fino al 73 Fort Knox è una cosa vera, cioè c'è l'oro e serve quell'oro, perché quell'oro dice quanta ricchezza c'è perché può essere convertita in dollari. Dal 73 in avanti non è più così. E quindi gli anni 70, dal 73 in avanti c'è questa crisi di questo compromesso socialdemocratico, per cui alla fine le cose non vanno più bene, non si possono più tenere, l'inflazione è troppo alta, no? E in Italia la gente la domenica non può andare in giro con le macchine perché non c'è il petrolio. E perché vi sto dicendo tutte queste cose? Per cui un'ideologia da dove nasce come risposta a questa crisi, cioè il neoliberismo nasce come risposta a questa crisi qua. Ora, un po' di ordine sui termini. Prima di tutto, la distinzione liberalismo-liberismo è solamente italiana, cioè non esiste negli altri stati, perché si dice liberal, ok? Questa distinzione deriva da un dibattito che c'era stato all'inizio del Novecento in Italia, per cui si era deciso che si usava liberalismo per, diciamo, i fenomeni politici e liberismo per quelli più economici. C'era un dibattito tra Croce ed Einaudi. Einaudi quello che poi diventa il primo presidente della Repubblica. E quindi, in verità, quando noi diciamo neoliberismo, neoliberalismo abbastanza intercambiabile, anche perché è un fatto solo italiano. E, poi, in verità, c'è tutto questo parlare sul neoliberismo, sul fatto che sia un concetto passepartout, che si usa per spiegare tutto. Spesso c'è indice proprio che c'è un po'... non so, il classico, mi viene in mente Boldrin o classico economista che dice vabbè, se è il neoliberismo, che indice di ignoranza sul dibattito di storia dell'economia, perché ci sarebbe una grossa differenza tra il neoliberismo e l'ordoliberismo, che è un'altra corrente economica fondamentale, perché è la corrente economica che plasma come fatto l'Europa, perché l'ordoliberismo è la corrente economica che prende il là in Germania. Gli economisti tedeschi sono tutti ordoliberali, ordo deriva da ordine, perché loro avevano questa rivista che si chiamava Ordo, no? Principalmente il terrore dell'inflazione, per cui tutto questo parlare che si fa adesso sul fatto che la banca centrale europea quando alza o abbassa i tassi e l'inflazione al 2%, è perché quando si è creata la banca centrale europea, ha preso in blocco il pensiero economico in auge in Germania e la BES nella BCE, ok? Chiaro fino a qua? Il neoliberismo perché si chiama neo? Neo sta per nuovo, ovviamente. Tra l'altro uno dei primi che scopre cosa sta nascendo e Foucault con una, tra l'altro, un'anticipazione incredibile, perché il corso che probabilmente qualcuno di voi conosce, che è Nascita della biopolitica, che è un corso che poi è stato pubblicato da Feltrinelli quando hanno pubblicato tutti i corsi, uno dei primi che hanno pubblicato, e in verità non parla della nascita della biopolitica, parla della nascita del neoliberismo. È il corso del 1979-80 al Collège de France. E questo neo per cosa sta? Perché è nuovo? Perché c'è un liberalismo vecchio, ovviamente quello dell'Ottocento, che viene modificato. Dov'è la modifica sostanziale? E qua cito lui, che è Marco De Ramo, Dominio. La modifica sostanziale sta nel fatto che non è più il centro, non è più il mercato, ok? Quindi il mercato in cui, come diceva Adam Smith, tutti gli esseri umani hanno questa tendenza a scambiare, sono degli, diciamo, la loro essenza di essere scambiatori, potremmo dire. E allora si crea questo mercato naturale in cui ci scambiamo tutto, no? E gli esseri umani sono questa roba. Non è più il mercato, ma diventa la concorrenza, la competizione, il fulcro, che è quello in cui siamo adesso, no? Per cui tutto ruota attorno alle imprese come concorrono, no? Il neoliberismo è un'ideologia, cioè è l'ideologia del nostro tempo. È il, 20.000 volte citato, There is no alternative di Margaret Thatcher. Non c'è alternativa. Quale frase che sembra fatta apposta proprio per descrivere un'ideologia? Una persona che viene lì e vi dice non c'è alternativa. Cioè non esiste frase più ideologica di questa. Negli anni 70 la battaglia delle idee, diciamo, viene vinta. Negli anni 80 ci sono i risultati politici, per cui il neoliberismo comincia con, ovviamente, 11 anni di Thatcher, 10 anni di Reagan, e da lì, esplode in tutto il panorama politico, per cui non è che rimane confinato ai partiti di centrodestra, ma abbiamo Clinton, Blair, Zapatero. E tutti quelli che vengono in mente nel centro-sinistra italiano europeo, perché poi tendenzialmente nel 90 in avanti non c'è più niente che si oppone. Quindi i tempi in cui noi siamo, cioè quest'acqua in cui viviamo adesso, questa ideologia e questa narrazione enorme in cui stanno tutti i partiti, per cui nessun partito ne è fuori, se non partiti ovviamente, cioè, assolutamente minoritari, che non hanno un peso, un certo peso. E Carlo Galli dice, che è una macchina mitologica complessiva, che è una bellissima espressione. È un'ideologia senza partito perché li pervade tutti ed è veicolata da tutti i centri di comunicazione. Per cui alla fine, se tu vedi la comunicazione tradizionale, la televisione, i grandi giornali, alla fine non si discostano. Come è avvenuta questa rivoluzione? Quindi come è avvenuto il fatto che la prima faccia dell'ideologia, cioè questa idea, no? Si sia diffusa? E da qui parto con questo libro. Questo libro è bellissimo. Costa pure poco perché adesso è nell'edizione economica. E Marco De Ramo cosa fa? Fa la storia, inizialmente, nelle prime 100 pagine, di come in America le fondazioni, inizialmente le fondazioni intese come i ricchi industriali che mettevano i soldi, per dire, creiamo un gruppo, quello che anche pensate all'utilizzo il termine think tank, cioè think tank deriva da qui. Adesso noi ci riempiamo la bocca di think tank da tutte le parti perché è un'invenzione degli industriali americani degli anni 70 che volevano vincere la battaglia delle idee. E a questo punto, diciamo, questo libro si discosta un pochettino da quest'altro. Perché secondo me Carlo Galli rimane un po' marxista, per cui se sei marxista alla fine la battaglia delle idee viene dopo, no? perché nella differenza che c'è tra struttura e sovrastruttura, la struttura sono i rapporti di forza economici, la sovrastruttura sono proprio tutte le idee, quelle che vengono in mente, la morale, la religione, ok? E Marco De Ramo, che poi tra l'altro anche Marx non è che ovviamente diceva la struttura viene prima, ma poi non è che la sovrastruttura non controreagisce sulla struttura, ovviamente tutti i discorsi che si fanno sono l'effetto del, non la, l'effetto della struttura, ma poi torna indietro, c'è un contromovimento per cui tu vai a influenzare tutte le robe che succedono nella struttura, quindi... Allora, Marco De Ramo cosa descrive? Cioè questa battaglia delle idee, che è stata vinta completamente, per questo che il libro si chiama Dominio, che è stata combattuta e vinta e dai centri intellettuali neoliberisti, e adesso spiego un po' più nel dettaglio, e che ha portato alla situazione in cui siamo ora. Tutta la prima parte, quindi, tutto questo racconto di come tanti industriali vedono che c'è il 68, un delirio totale negli Stati Uniti, campus in subbuglio, dicono qua dobbiamo fare qualcosa, perché sennò ci finisce, non sia mai che ci finisce come l'Europa, che facciamo lo Stato sociale, pure qua, e allora dobbiamo fare un controattacco, no? E in verità lui la chiama proprio rivoluzione, cioè le prime pagine sono bellissime, cita La Politica di Aristotele, in cui dice perché avvengono le rivoluzioni? Perché i diseguali vorrebbero essere uguali, ma la rivoluzione è l'opposto, quando chi vuole essere diseguale si sente troppo uguale agli altri, fa la rivoluzione. Tradotto, quando i ricchi si sentono, come direbbe Orwell, che sì, siamo tutti uguali, ma qualcuno è più uguale degli altri, quando i ricchi cominciano a sentire che non è vero che sono più uguali degli altri, ma forse stanno diventando uguali veramente, fanno questa rivoluzione, no? Questa tra l'altro è la tesi di fondo anche di un altro libro di un sociologo che si chiama Domenico De Masi, che è morto da poco, e quel libricino di Einaudi, si chiama La felicità negata. Lui la vede un po' da un altro punto di vista, lui dice, è come se in questa grande battaglia tra il neoliberismo e col neoliberismo, chi ha perso la scuola di Francoforte, la scuola di Francoforte vuol dire gli intellettuali più importanti in Europa, dagli anni 30 in avanti, Adorno, Horkheimer, Marcuse, per una serie di motivi hanno perso, magari non perché non avevano ragione, sicuramente lui dice avevano ragione ma hanno perso perché non si facevano capire, non avevano presa, non avevano un partito, non avevano abbastanza soldi, cioè non avevano un partito con un legame così forte con loro, e quindi non è l'unico De Ramo che ha quest'idea. Tutto chiaro? Fino a qui. E allora cosa succede? Che questo lavoro degli anni 70, degli anni 80, che non vi sto a descrivere, comunque vi consiglio di prendere il libro e leggerlo, e questo lavoro è da tutte le parti. Lui, cioè, si concentra negli Stati Uniti, ma negli Stati Uniti, oltre alle fondazioni, vuol dire penetrare nelle università e fare i corsi di economia di un certo tipo, fare una certa economia, no? Fare solo una certa economia. Quando si studia, fare in modo che diventino giudici della Corte Suprema un certo tipo di giudici, che quando ci sono le cause, in ultima istanza, emettono delle sentenze, e la lista è lunga di tutte queste cose molto pratiche che vengono fatte per vincere questa battaglia delle idee, e allora cambia un po' il mondo. La prima cosa che succede è che cambiano i vocaboli che si usano, no? E qua ci possiamo anche immaginare l'Europa dagli anni 90 in avanti, ok? L'uso del linguaggio non è secondario perché con il linguaggio sta alla base dell'ideologia e delle narrazioni, per cui da un certo punto in poi non si può più dire padrone, non si può dire più padronato, non si può dire capitalismo, non si può dire, perché io non sento adesso alla televisione un politico che dice la parola capitalismo, non so, boh. Ideologia non si può dire, cioè ideologia è una parolaccia. E nelle parti iniziali del libro c'è un bellissimo racconto del fatto che nei manuali dei Marines di inizio anni 2000 spiegano ai soldati americani che vanno all'estero come si fanno a capire come funziona un'ideologia, una narrazione, e gli spiegano cosa devono fare, no? Per convincere le persone che, diciamo, in un paese X, in Afghanistan, hanno un'ideologia diversa, no? Capire come pensano. anche ideologia diventa una parola che non si può più dire. Infatti, da qui gli ultimi 20 anni di dibattito politico in cui ideologico è un termine assolutamente negativo, in cui tu dici, è un discorso ideologico. Qui arriva Carlo Calenda e ti dice, stai dicendo una cosa ideologica, no? E io ti dico una cosa tecnica, neutra, seria, e tu sei ideologico. E quindi il lessico cambia. L'alternativa cominciano a dirci che non c'è alternativa, e dopo un po' che si dice che non c'è alternativa, la profezia ovviamente si avvera e l'alternativa non c'è veramente. E le idee che erano le idee di Hayek, perché Hayek il teorico principale, von Hayek o Hayek, e il prendono piede. Diciamo, alla base della prima faccia di ideologia nel neoliberismo, chi sta lì a pensare alle idee, a parte tutta questa battaglia delle idee portate avanti da chi aveva soldi, quindi imprenditori che avevano fondazioni, che andavano, però c'erano gli intellettuali, no? Non è che facevano loro le idee, mica le creavano loro. Chi andavano a foraggiare? Sono principalmente la corrente che si chiama monetarismo, quindi Milton Friedman, e Hayek. Tutti quelli che vincono i premi Nobel per l'economia, no? Tra l'altro la storia dei premi Nobel dell'economia, che è raccontata qui, è molto buffa, per cui il premio Nobel per l'economia non c'è, non esiste, perché quando Nobel è stato fatto il, come dire, ha lasciato le sue volontà, ha fissato 5 premi Nobel in cui non c'è l'economia, e poi la banca centrale svedese nel 68 si è inventato un premio che loro hanno chiamato premio Nobel per l'economia, che non è questa cosa, hanno cominciato a dargli a chi? A economisti come Hayek, che lo vince nel 74, Friedman lo vince nel 76, poi tutti quelli che si chiamano, in storia li chiamano i Chicago Boys, cioè tutta questa scuola di Chicago in economia che segue questa via, e vincono tutti il premio Nobel. Quindi queste sono le idee di base, no? Se parliamo del nucleo, abbiamo detto che il mercato è meno importante, il punto è la concorrenza. La concorrenza chi la fanno? Le imprese. E tutto deve somigliare a un'impresa. Tutto, qualunque cosa si muova sotto il cielo, è un'impresa che concorre con gli altri. Qualunque forma di vita senziente o di istituzione deve somigliare a un'impresa. E tra le parole che tra l'altro non si possono più dire, cioè capitale, che non è che uno dice capitale, si può dire solo quando è un po' edulcorato, quindi si dice sempre il capitale umano, il capitale sociale, il capitale simbolico, il capitale, non so se c'è qualche altra forma con l'aggettivo di fianco, si può dire perché è un po' più smussato, no? E perché questo capitale è adesso ovunque. Cioè dire che le persone sono il capitale umano, a volte noi veramente siamo talmente dentro questa roba che è così tanto la nostra acqua che non ce ne rendiamo conto. Dire che una persona è un capitale umano, c'è proprio un controsenso logico, cioè sono due robe che sono diverse. Quindi la concorrenza è il fulcro e la fanno le imprese, tutto deve essere simile a un'impresa. Poi adesso non solo le persone, ma anche lo Stato, no? Quindi cos'è, cioè, la dinamica in cui noi siamo? È che qualunque cosa che fa lo Stato e lo Stato stesso deve funzionare come un'impresa. Per cui le ASL si devono chiamare azienda, ma mica si chiamavano azienda prima, si chiamavano unità sanitarie locali. L'università deve funzionare come un'impresa, e a parte a livello economico macro con i fondi, devono dare i crediti, no? E tutte le pratiche pubbliche, dice De Ramo, utilizzano tre strumenti che sono presi dalla corporate governance, cioè da come le aziende si gestiscono, e spostati nell'ambito pubblico. Quindi il concetto di governance, poi il concetto di benchmarking, cioè che qualunque cosa deve essere misurata. Benchmark è il, come si dice, il punto di riferimento, diciamo. Sì. E quindi cosa fanno, per esempio, adesso, come si danno i soldi all'università con questo concetto qui, per cui fai una classifica secondo certi criteri e dai fondi con questa gara tra virgolette, E lo Stato quindi non è che vada abolito lo Stato, cioè non è che il neoliberismo o il neoliberalismo pensa che lo Stato vada abolito, ma pensa che lo Stato debba fare solamente un certo tipo di cose, in un certo limite, soprattutto. Cioè quindi che quell'idea di Hobbes, che lo Stato Leviatano, che noi dobbiamo bloccare in qualche modo, non deve più esistere, lo Stato deve essere controllato, deve avere certi limiti. I limiti del mercato, no? Ovviamente. Sì, a livello internazionale che a livello interno. E a livello proprio delle persone, questa competizione tra, come ho detto, tutto diventa un'impresa, allora questa competizione, che è il fulcro del neoliberismo, dove le aziende stanno e competono, chi vince vince, chi muore muore, viene completamente trasposto alle persone, no? Quindi lo struggle for life, la lotta per la vita, è la norma sociale. E quindi tutto questo parlare sul merito, il demerito, la competizione, e chi perde, chi vince bene, chi perde, poverino, e se va bene la compassione, se va bene la beneficenza, ma non più di questo. E la disuguaglianza è assolutamente, vabbè, qua dico l'ovvio, non è assolutamente evidente e cresce, ma è proprio legittimata, cioè è giusto che ci sia. Disuguaglianza, anzi, se c'è, vuol dire che cioè, deve andare così e va bene così. E la disuguaglianza economica, la ricchezza, cosa fa? Colerà. Colerà giù, che è la parola dell'economia americana negli anni 90, il trickle down, che era, fidatevi, che prima o poi vi sgocciola, che tra l'altro già l'immagine già dice tutto, vi sgocciola un po' giù, questa ricchezza dei grandi, dei ricchi, poi arriverà anche ai poveri, no? Sgocciolerà giù. Adesso, cioè, e finisco, così lasciamo lo spazio al dibattito, e c'è a che punto siamo, no? Per cui questa roba ha preso piede perché di quelle tre facce di cui ho detto dell'ideologia ha fatto benissimo la prima, perché comunque non è che Hayek, Mises, Friedman sono due idioti, cioè, ha fatto un lavoro teorico, no? Criticabile, ma comunque di un certo tipo. L'ha messo in pratica, la seconda faccia che avevo detto. La prassi, come l'hanno fatto, non solo attraverso i partiti, ma attraverso le fondazioni, i soldi. E siamo arrivati a noi. Il problema è che il neoliberismo adesso, cioè che il problema reale in cui noi ci troviamo da almeno 10 anni, è che il neoliberismo non funziona. Questa cosa è palese a tutti. Quindi negli anni 90 la speranza era alta, l'esaltazione pure. E cosa prendeva piede? L'idea che basta queste rotture di coglioni dei sindacati, dei partiti grandi, è tempo un po' di liberare tutte queste energie e di riuscire, ok? Anche perché poi questa cosa è successa con la new economy, internet, tutto sembra possibile fino a poi alla prima grande crisi che è il 2001. Per cui, quando poi si vede che distruggono i Twin Towers, c'è la guerra, che c'è ancora la guerra. E poi, soprattutto, il 2008. Cioè, il 2008 è la proprio. E qua parlo io adesso, da qua in avanti, nel senso non sto più citando loro, quindi mi prendo tutte le responsabilità. Dal 2008, cioè, il 2008 è proprio la fotografia del fatto che il neoliberismo era vivo, vegeto. Perché è successa la crisi finanziaria di subprime, ma di fatto non è successo niente. Nel senso che nessuno ha messo in dubbio come andassero le cose. Cioè, cosa ancora più grave, nessuno ha cominciato a fare una critica feroce di come funzionasse la finanza e il sistema finanziario mondiale. Cioè, per intendersi quello che ha fatto Marx quando ha scritto Il Capitale nell'Ottocento, nessuno l'ha fatto e ha sfondato così tanto. Magari qualcuno l'ha fatto, cioè Piketty ha scritto Il Capitale nel XXI secolo, ma tutto il dibattito non è sfondato nell'opinione pubblica. Per cui c'era ben chiaro il fatto che c'erano le cose che non andavano, la gente stava malissimo, tutti perdevano il lavoro. Poi di fatto, però, cosa è successo in Italia? È arrivato Monti, per esempio, no? E qui c'è un problema che sarebbe, credo, il problema per cui questa crisi del neoliberismo 2001-2008, poi in verità si potrebbe citare anche questa attuale, per cui la guerra in Ucraina, potrebbe mettere fuori i nervi scoperti se ci fosse una, diciamo, si parlasse delle questioni strutturali, ma l'ideologia è così forte che fa così bene questo lavoro, no, di coprire, in questo caso l'ideologia neoliberale, che quello che vi ho detto prima, il pensiero critico, quindi la critica, non si riesce a fare, non su grandi, diciamo, su grandi numeri. Per cui le questioni strutturali, che era la stessa cosa che Marx diceva, che venivano coperte nell'Ottocento, sono copertissime. Ma non c'è nel senso da fare del complottismo, è una pura evidenza di come va il dibattito pubblico in Occidente in generale, in Italia in particolare. Per cui è ovvio che se stiamo per parlare un anno di Vannacci, voglio dire. E quali sono queste questioni strutturali che sono alla base e di cui non si parla mai? La moneta, la finanza, ma non la finanza perché il sistema finanziario è brutto, è cattivo, la finanza perché nessuna idea delle cose che succedono e non c'è una conoscenza diffusa su come funziona il sistema finanziario. E il fatto che i mercati sono deregolamentati dagli anni 90, i capitali vanno dovunque vogliano, cosa mai successo nella storia dell'umanità, e questi capitali che si muovono hanno un effetto, quando abbiamo fatto gli incontri su Milano, hanno un effetto molto cogente, cioè il fatto che vengono comprati i palazzi, cambiano i quartieri delle città, ma su questo non c'è nessun dibattito. Per esempio regolamentare i flussi della finanza. E la creazione della moneta, cioè la moneta veramente è il tabù, probabilmente se ci fosse, cioè come Freud ha scritto del il sesso a fine Ottocento, la creazione della moneta è qualcosa che sembra che cada dal cielo, ma come si crea moneta, chi crea moneta, chi sceglie i tassi di interesse, cosa fa la Banca Centrale Europea, sono ciò a cui è peso un paese come l'Italia. Per cui è ovvio che poi quando viene la Meloni non può fare nulla, perché poi alla fine cosa deve fare? La politica monetaria è completamente al di fuori di qualunque tipo di controllo, perché la Banca Centrale Europea, le banche centrali si dice che sono indipendenti, non devono avere il controllo della politica perché negli anni 80 ha portato all'inflazione e al deficit di bilancio, bla bla, di fatto però la cosa più fondamentale è stato fuori controllo. Cioè nessuno ha un controllo democratico sulla creazione della moneta, quella creazione della moneta attraverso le banche commerciali. E ultimamente un dibattito, è uscito un libro bellissimo di un professore americano, adesso non mi ricordo, uscito per la Treccani, per cui perché quando si crea moneta la moneta deve andare per solo alle banche commerciali? Cioè perché ognuno di noi non può avere un conto, perché le banche centrali hanno un conto presso la Banca Centrale Europea? Perché ogni cittadino non potrebbe avere un conto? Per cui quando si decide di immettere moneta, come ha fatto Mario Draghi con il quantitative easing, che vuol dire semplicemente dare i soldi. Tutte le domande, risposte che io non posso dare perché non sono un economista, ma il punto vero è che non se ne parla. E poi c'è tutto il grande problema del debito. Per cui il debito, e qua torno a De Ramo perché ci fa un capitolo bellissimo, la struttura del debito, cioè il fatto che le persone sono strutturalmente indebitate, e non a caso la crisi del 2008 è una crisi di debiti sulle case, no? Debiti che non si dovevano dare, debiti che non andavano, credo che tutti sappiate, ma lo ripeto, debiti subprime, perché si davano a persone subprime, cioè come dire, persone che sai già che non possono pagare. Tutti questi debiti messi insieme, fatti diventati prodotti finanziari, che girano il globo, e poi ovviamente quando crolla il castello, crolla tutto, perché questi debiti, cartolarizzati, si dice così, sono diventati CDO, si chiamavano così questi prodotti. Il fatto che il ragionamento su che cos'è il debito, no? Perché l'economia deve essere fondata sul debito, non solo il debito degli stati, ma anche il debito delle persone. Per cui Marco De Ramo fa una parte bellissima in cui riflette sul mutuo. Cioè il fatto che la gente faccia i mutui non è naturale, nel senso si può fare anche, ma non si è mai fatto. Il fatto che la gente si indebiti per 30 anni debba diventare comunque una persona indebitata per metà della sua vita per comprarsi una casa, e che tante persone siano in questa condizione è ben diverso rispetto ad avere delle persone che sono tutte libere, perché lui, cioè, ovviamente dice chi è indebitato, a parte che introietta l'idea della proprietà, per cui se tu ti fai il mazzo 30 anni per comprare una casa, ovvio che poi la proprietà diventa un po'... E poi ovviamente molto meno propenso al rischio, e ovviamente molto meno... deve trattarsi, che è la cosa che dicevo prima, lui stesso come un'azienda, per cui se tu devi ripagare questo debito, devi avere una vita improntata a questa cosa. E questo è tutto il discorso che un po' questo aveva bucato il mainstream sulla Grecia, perché la Grecia è una roba talmente palese che era successa, talmente disperante, per cui è arrivato Tsipras, grande delusione, Varoufakis che ha tentato di... Ma Varoufakis ha fatto un partito 10 anni fa perché doveva presentarsi alle europee, che era DM25, che adesso non si presenta neanche più perché si è ridotto a mettersi con la lista di Santoro, ma queste sono cose contingenti, non c'entrano, come per dire che i tentativi che si fanno poi cadono tutti nel nulla. E perché, e ho concluso veramente, l'ideologia che è il neoliberismo non è l'unica ideologia, perché l'ho detto anche prima, le ideologie sono sempre concorrenti, ci sono delle nuove ideologie, no? Ma le nuove ideologie che noi seguiamo, che noi cerchiamo, e qua torno al libro di Carlo Galli, che lui cita per esempio l'ambientalismo, il sovranismo, anche lui cita, anche l'ideologia, potremmo dire, il femminismo barra rivendicazione dei diritti, dei diritti civili del... Sono tutte ideologie che, per quanto possano essere combattere per qualcosa di buono, sono sempre dentro un'idea di società degli individui, per cui sono tutte ideologie che spingono per conquistare diritti sociali e che alla fine non è che vanno a riflettere sulle questioni strutturali. Quindi queste nuove ideologie ci sono, qualcosa muovono, lui fa il paragone, sono come le onde del mare sopra, qualcosa fanno muovere, però poi in profondità non ci arrivano. Quindi la questione è proprio questa, cioè avere presente cos'è un'ideologia, no? Qual è il lavoro da fare per vincere una battaglia delle idee, e dovrebbe essere il primo passo per rimettere in campo qualcosa. Perché se no, diciamo, anziché morire democristiani, moriremo neoliberali. Sicuramente molto poveri. Sicuramente molto poveri. Va bene, grazie. Scusate se sono stato lungo. No, la mia domanda è molto basic in realtà, probabilmente, ed è, cioè, a parte che, no, anzi sono due. La prima è cosa definisce, almeno in questi testi o rispetto alle tue conoscenze, un'ideologia come tale, nel senso che queste quattro di cui abbiamo parlato sono per lo più occidentali e per lo più degli ultimi 2 secoli, e quindi in tutto questo ce ne sono di concorrenti all'interno della società, quindi mi chiedevo un po', insomma, perché, se avesse scelto questo in virtù del fatto che parlava del nostro contesto, oppure perché se ne parla in alcuni casi e in altri no. E l'altra domanda, che forse è ingenua, ma forse in realtà non lo è se è vero quello che dicevamo sul fatto che per lo più l'ideologia si nasconde, nonostante abbia un impatto molto vasto, soprattutto quando è quella egemone su tutti i piani del sociale. Cioè, se citiamo quelle quattro a cui facevamo riferimento, due, si nascondono totalmente sotto false vesti, tentando di dare una neutralità, per cui non usano mai neoliberali o liberale come proprio etichettamento, mentre invece le altre due, cioè fascismo e comunismo, ne fanno una bandiera anche piuttosto esplicita, mentre non esiste nessun partito, siamo i liberali, nonostante poi nel dibattito anche politico o giornalistico venga reso esplicito talvolta questa ideologia, posto che invece altri pezzi si nascondono, per cui capitalista effettivamente non si dice mai, forse adesso inizia ad essere un po' più detto in termini di anticapitalismo anche da contesti che non so se abbiano poi tutti gli strumenti, cioè se si siano dati delle diramazioni in tutti i campi dell'esistente per pensare una società al di là dell'anticapitalismo, ma comunque senza divagare, cioè mentre abbiamo tot partiti comunisti, adesso fascismo non si può più dire, però alla fine si trova un modo, ci sono, non lo so, i democratici, i moderati, no? Che sono tutti i termini, i repubblicani, che sono, cioè la democrazia, la repubblica sembra un po' quella cosa neutra a cui adesso la democrazia sembra quella. E l'ultima osservazione che volevo fare è che comunque forse mi dà anche un filino coraggio, è che stiamo parlando di tutti i tempistiche molto brevi, tutto sommato, quindi con gli orizzonti infiniti che ci sembrano, è effettivamente c'han 50 anni ed effettivamente altre ideologie prima sono durate tutto sommato più o meno questo, ecco, speriamo, esatto, che quella dopo non siano nazi, perché sennò un bordello, però... No, beh, per rispondere alla prima, sì, c'è un discorso parziale, no? Per cui lui prende l'Europa perché collega questa, cioè il termine ideologia come lo usiamo noi è troppo collegato alla storia europea moderna, no? E poi sceglie solo il lato politico, per cui per esempio era un certo tipo di cattolicesimo, aspetta che forse trovo la parte... Sì, cioè, vabbè, la teologia della liberazione, l'islamismo radicale, ci sono tantissime altre ideologie, no? Però lui ha fatto un discorso abbastanza, diciamo, sul nostro contesto, ok? Poi l'altra era, secondo te, perché ci sono delle ideologie, no? E perché usano il termine in maniera plateale? Ma poi il problema non è neanche tanto di usare il termine neoliberale, tenendo comunque conto che il liberale è ancorato all'Ottocento, no? Per cui non è ideologia liberale quella che c'è adesso, cioè il mare in cui nuotiamo è ideologia neoliberale, no? E poi il punto non è neanche quel discorso sul linguaggio, no? Era per dire quanto penetra in profondità. Poi il lavoro di critica, no? Che lui dice quello che deve fare il pensiero critico cos'è, e fare la genealogia, cioè quindi andare a vedere i concetti, i nuclei fondanti di questa ideologia, da dove vengono, da quale fratture vengono, perché ci sono, no? E parlare di quelli. Quindi, per capirci, cioè se io anziché neoliberale lo possono dire tutti, ma se poi io appunto dico o debito o finanza o moneta, facendo gli esempi, che questi li ho fatti io, non li ha fatti lui, E quindi poi alla fine, voglio dire, un'ideologia è quando vince che si nasconde. Chi ha già perso non ha niente da nascondere, voglio dire, per cui che un partito si chiami comunista in Italia o un... No, però voglio dire, in termini di... Nel senso, la metto in due termini. Il primo è, per queste due ideologie mi viene in mente un manifesto, cioè... Se tu parli, c'è il manifesto di Marx, l'hanno letto centinaia di migliaia di persone ed è quel testo riconoscibile. Possiamo dire che il Mein Kampf cerca di essere quella cosa lì e altrettanto, come dire, una serie di testi. Il manifesto, cioè il fascismo, si è dato un manifesto, un assetto culturale ben definito ed esplicito, e altrettanto si può dire di tutta l'esperienza sovietica, soprattutto del primo periodo, che si è presentata come un sistema alternativo dichiaratamente, con un nome e un cognome e una serie di simboli, come dire, anche molto espliciti. Cioè è vero che stiamo parlando di, come dire, di un secolo forse con delle caratteristiche diverse, e quindi anche come i nuovi media si inseriscono in questo riferimento evidentemente costituisce un altro pezzettone, però proprio per questo dicevo, se la quarta che avevi citato era quella liberal, mi sbaglio, no? Sì, quella socialdemocratica, scusami, giusto? Esatto, sì, esatto. che comunque possiamo dire che apparteneva ancora a quel secolo lì, in una qualche maniera, non so se posso dire che c'è il il manifesto o il... Ma no, ho capito. Cioè, ovviamente, poi cioè, questa è un mettere ordine in delle... E qua parlo per lui, spero, se mi fulmina se dico che cazzate. Poi ogni ideologia cioè, ha la sua storia, no? Per cui lui, per esempio, fa la differenza tra... Le chiama ideologie discendenti, quelle che partono da un testo, quindi Marx scrive prima e dopo arriva tutto il resto. Il fascismo è l'opposto. Perché il fascismo certo che si deve un'ideologia, ma anzi forse poi, io non ne ho parlato perché dopo lui ne parla una per volta, il fascismo prima di tutto dice, cioè ti meno, no? Squadraccio e poi vediamo, anzi non è neanche detto che arriviamo a una definizione di che cosa vogliamo fare, no? Qual è il nostro manifesto ideologico, poi lo fanno, no? Perché lo fanno. Quindi sì, ognuno ha la sua storia. Non, credo che su questa cosa non si può dire che c'è qualcosa che accomuna tutte. Io parto da una cosa che diceva Chiara, però spero di non sbagliare. Anch'io credo che, come giustamente si chiedeva, anzi, suppongo la risposta che voleva avere Chiara, non c'è il testo, il manifesto del liberismo, del neoliberismo. Paradossalmente la descrizione migliore del capitalismo e quindi dell'ideologia degli avversari la dà Marx, che spiega al capitalismo come funziona il capitalismo, cioè quali sono proprio i regimi economici, quanti ritorni, che tipo di ritorno deve avere un'impresa l'anno dopo per potersi definire capitalista davvero, se no è un altro tipo di economia che fa tutta la genealogia, prima c'era il mercantilismo, poi c'era qualcos'altro, poi è arrivato il capitalismo, prima c'era il feudalesimo, le monarchie, eccetera, eccetera. Quindi effettivamente sembrerebbe che il liberismo e poi il neoliberismo dopo il 73 non si definiscono in maniera chiara, noi siamo questi, e forse quello sono quindi i più ideologici di tutti, perché rifiutano sempre di dire, di definirsi in qualche maniera, perché sono già potere, sono già la forza dominante, quindi semplicemente devono dire noi la pensiamo così, anzi ancora noi facciamo così, perché così è meglio per tutti, tutte, cioè chi è ricco è ricco e chi è povero prenderà le bricioline. Discorso sull'economia, no? Scusa se ti interrompo, cioè il fatto che questi non essono questi libri, ma è un libro anche di Zoc, che ha fatto il professore è il professore della Statale, adesso di filosofia morale, che ha scritto questo libro che si chiama Critica della ragione liberale. Tutto il discorso è l'economia che è diventata una scienza matematica, diciamo matematizzante, si propone come neutra, che poi non lo è ovviamente, no? E quello è proprio, cioè tu vedi allora i governi tecnici, no? I governi tecnici, nel senso, sono cose lampanti. Chi viene quando c'è il governo tecnico? Viene un banchiere. E questo dice tutto. Non va Landini, nel senso, non va uno che ha fatto il sindacalista. E l'Italia nel 93 è venuto Ciampi, nel 2011 Monti, e nel 2020-21 Draghi. E sì, il problema è che, cioè, il problema è andare a scovare questi nuclei, no? E battere su queste cose. Un'altra cosa è il rapporto, cioè con l'informazione, ma intesa come il digitale. Per cui c'è un'altra grandissima cosa su cui che ci passa sopra la testa e non riusciamo a fare niente, esattamente come la finanza, e cazzo avere un controllo su... Cioè, siamo nelle mani di Google, Facebook, Instagram, qualunque cosa fanno. No, in realtà... Cioè, quindi qui sopra c'è un laboratorio con degli hacker che dicono sempre, ci tengono a dire molto spesso anche nella loro maniera così caratteristicamente un po' pedante, ma ha ragione, che la tecnologia non è per niente neutra. E appunto, cioè Google non fa i suoi servizi, le sue mail per dire ma sì dai, sono le lettere che una volta portava il postino di Stato, adesso sono le mail. No, perché quando passano sulle mail tutto ciò che passa nelle mail diventa di loro proprietà. Quindi se tu hai la pessima idea di mandare per me un elaborato scritto, prima diventa loro volendo e poi diventerà dell'editore cui lo darai per stamparlo, eccetera. Per cui c'è tutti i discorsi completamente giusti. No, la cosa che mi piaceva era la conclusione, riflettere sulla conclusione che tu facevi riguardo al fatto di che ideologia serve adesso. Le cose che venivano elencate erano giustamente, essenzialmente penso, il fatto che non c'è controllo sulla finanza, non c'è controllo né attenzione su quello che vuol dire economia del debito, e non c'è un'ideologia o un sistema di pensiero che vada ad affrontare la realtà come siamo dei gruppi. Siamo dei gruppi, siamo delle classi addirittura, non siamo soltanto individui qui ed ora. Perché già per esempio effettivamente se uno si pensa come individuo già è in un mondo liberale, cioè già sono un'impresa, già sono io monade all'interno del mondo e quindi mi relaziono alle altre singolarità. Invece di dire da subito no, siamo tanti soggetti in una stessa condizione legata, ancora una volta, secondo me avrebbe assolutamente senso, alla nostra condizione nella sfera produttiva. Cioè, se io l'unica cosa che ho da vendere è il mio tempo e le mie energie per lavorare, sono, tra l'altro, condizione iper mega condivisa e diffusa, o se io ho i soldi per far lavorare qualcun altro, anche con i miei soldi spesi, ma io non lavorerò. Sarà qualcun altro che lavorerà con i miei soldi spesi e io riceverò poi indietro i guadagni del lavoro dei miei soldi e del lavoro di altri e di altre. Già che si è smesso di affrontare la vita e la realtà così, ma siamo tutti uguali, che poi non è assolutamente vero, è la roba del Covid, no? Siamo tutti sulla stessa barca, cazzo proprio, chi ha 200 metri quadri in centro e chi vive in quattro in una casa in Barona popolare di 6 metri quadri senza internet perché ce n'è uno che ha il telefono del padre, che è l'unico che può pagare le bollette, eccetera, non è la stessa cosa. Cioè, lì l'ideologia, anzi, un certo tipo di ideologia si è persa. Trionfa l'ideologia neoliberale, che riesce a darsi come ragione del mondo, realtà oggettiva, scientificamente, però l'unica che esiste, è finita la storia, tutto il resto, da cui, finalmente, dopo troppo parlare mio, scusatemi, due domande, o forse anche soltanto una. Punto primo, forse lo diceva anche prima Chiara, ed è per questo che volevo legarmi un po' a questo intervento, ci sono altre ideologie al mondo che non sono necessariamente quelle inventate da occidentali, tendenzialmente cristiani, alcuni protestanti, alcuni cattolici, e quindi magari sono quelle che potrebbero cambiare qualcosa veramente nel mondo, cioè dallo shintoismo al taoismo al socialismo con caratteristiche cinesi, al maoismo, ma anche la dottrina politica economica dell'induismo, dell'India o del cazzo ne so, di aborigini australiani, che comunque esistono. E basta, cioè, secondo me, no, cioè, se tu hai presente delle ideologie che possono partire da altri punti o se ne esistono, che possono aiutarci a sbrogliare la matassa. Poi Luigi Galli in una conferenza mi ricordo che diceva: poi alla fine quello che bisogna fare è rimettersi a fare e utilizzare l'economia politica e la geopolitica per rifare tutto da zero. Per cui quella cosa che tu dici, cioè se la geopolitica è veramente è una cosa seria e la studiamo per ciò che è, no? E non facciamo finta, non è che diciamo vabbè, è una roba di destra per fare la guerra, perché non è quella roba lì. Ti fa capire che nel mondo c'è anche altro, non c'è solamente il mondo americano in cui siamo dentro, piedi tutto completamente, e ti può dare una prospettiva, perché poi ovviamente è inutile far finta di nulla, per cui cioè, se l'Italia è un paese che ha le basi americane sul proprio, cioè voglio dire, un paese ha sicuramente politica estera limitata, mettiamola così per dire un eufemismo, e quindi lui dice da cosa bisogna ripartire, cioè a criticare questa realtà. Alla fine Marx cosa che aveva fatto? Critica feroce all'esistente, fatta con metodo ovviamente, e ha scritto Il Capitale. Penso che poi questa cosa non sia forse andare a prendere altre ideologie in altre parti del mondo, certo come spunto magari, ma noi dobbiamo fare, cioè a me verrebbe da dire, fare come ha fatto Marx 200 anni fa, metterci a rifarlo, per rifarlo non dico da zero, ma rifarlo in un mondo in cui c'è internet, c'è la finanza che fa le transazioni in 0.1 millesimi di secondo. Cioè, la prima cosa, come aveva fatto lui quando ha scritto Il Capitale, è capire come stanno le cose. Ci proviamo, no? Quella che era la prima faccia dell'ideologia. A noi ci manca proprio. E tu, questo lo vedi, che i partiti brancolano perché non fanno sto lavoro. Anche se in Italia ci sarebbero le persone valide per farlo, io credo. Andrebbero messe insieme, no? E rifare quello che ha fatto Marx non è facile, però cioè io penso, le prime robe che mi vengono in mente anche tipo i paradisi fiscali, ma quanto, cioè, quanto incide quanti soldi vanno nei paradisi fiscali, sono cose completamente avulse dal dibattito politico di tutti i giorni. Qualcuno infatti ha provato a farlo, nel senso Piketty ha scritto Il Capitale nel XXI secolo e ha provato, un librone così, no? E Zuckman ha fatto queste indagini sui paradisi fiscali, e questo libro non l'ho letto quindi non so, però leggendo l'estratto, però è come se essendo dentro l'ideologia neoliberale poi alla fine non ci si riesce a mettere insieme, perché poi il problema è un po' quello, per cui ci sono questi tentativi, come dicevo magari fai Varoufakis che prova, no? E però poi rimaniamo lì, non so se ho risposto, scusate. In primis, grazie, perché è stata una serata interessantissima. Io, nella mia crassa ignoranza, ero limitato a ideologia, insieme di valori che mi guida o guida le persone ad agire in un certo modo, e anch'io all'inizio continuavo a chiedere cosa differenzia quelle che poi sono le religioni dalle ideologie, e cioè il percorso che ci hai fatto fare, poi incentrato soprattutto sulla modernità, mi ha aiutato tantissimo. E secondo me, però, rispetto agli ultimi scambi che ci sono stati, non è che manchi tanto l'analisi teorica, perché effettivamente, al di là poi di dire ci incentriamo molto sul mondo occidentale, però penso non a caso si chiami dominio quel libro, cioè è comunque un mondo dominante, che ci piaccia o meno, che va a imporre anche delle dinamiche di scambio a livello mondiale, dove sicuramente poi esiste esistono degli altri mondi che in qualche modo poi si scontrano con il dominio anche militare, se vogliamo, del mondo americano, per semplificare. Quello che manca, secondo me, però, più che l'analisi teorica, è un'azione. Cioè, mi è piaciuto molto l'inizio, dove sei andato a prendere che cosa faceva Goebbels, però sostanzialmente cioè, a noi cos'è che è mancato? È mancata l'analisi politica, o sono mancati gli scioperi generali? Cioè, noi abbiamo fatto nel 2001, c'era il movimento Cancella il Debito, vabbè, ci hanno massacrato e ci hanno fatto capire che non potevamo più avere quel tipo di azione, di presenza fisica collettiva. Dal 2008 c'è stata la crisi più enorme che si poteva immaginare del sistema economico mondiale. In Italia quanti scioperi generali abbiamo fatto? Zero. Cioè, è lì che secondo me è mancato proprio una delle due gambe su cui dovremmo camminare, cioè l'ideologia, il pensiero. Cazzo, noi quelli intelligenti continuano a proporci delle analisi, delle valutazioni, un modo di leggere tutti gli errori, però poi, cioè, se non abbiamo l'altra gamba non camminiamo. E l'altra gamba, secondo me, parlando dell'Italia, perché quello più o meno capisco, però mi sembra che anche nel resto del mondo non è che si riesca poi a mettere insieme un movimento sociale, appunto i sindacati, chi riesce a dare una visione anche, se vogliamo, di classe, ma semplicemente collettiva di quello che c'è di sbagliato nell'individualizzare la società, che poi è la base del neoliberismo. Cioè, è veramente la visione collettiva che diventi azione, e che poi, cioè, questa azione si basi sulle analisi che poi possono prendere mille, come dire, basi teoriche, però a noi mi sembra che manchi la voglia e la possibilità, anche senza essere massacrati, di scendere in piazza. Sì, poi, cioè, secondo me la roba del 2001 che dici, cioè, è vera, perché poi quello è stato probabilmente l'ultima volta in cui tante persone hanno posto un problema su una questione strutturale. Perché, vabbè, poi nel senso, in maniera probabilmente anche confusa, per cui forse no global non era proprio la parola migliore da scegliere, cancelli il debito, però, capito, poi sai, fare questi discorsi, cioè, è ovvio, noi parliamo, si fanno macro categorie, poi una cosa che ne so, il neoliberismo nella società americana, nella società italiana, nella società francese, cioè, per come conosco io la storia italiana contemporanea, cioè, anche se vedi, per esempio, anche come la società aveva reagito a Tangentopoli, no? Anche lì, confusione, tante cose, però qualcosa, o come la società ha reagito a Falcone e Borsellino quando sono morti, no? Perché probabilmente Berlinguer muore nell'84, il comunismo, cioè, nel senso, alla fine il PC all'apice a metà anni 70, ma poi quest'onda se la porta un po' avanti, no? Fino a metà anni 80, per cui non è il potere, ma tante persone. Poi questa cosa non è che si fa in pochi anni, si smonta. Per cui io penso che, perché poi nel 2008 le cose, perché sono passati intanto 20 anni, no? E in cui tu, se nuoti in questo mare, cioè la grande cosa disperante, no? Che la roba che dice Mark Fisher, il realismo capitalista, e poi alla fine, cioè se questa cosa, che è la stessa cosa che dice Byung-Chul Han, no? Che dice la psicopolitica, se sta roba qua poi ti entra dentro, no? E quindi quando c'è un problema tu perdi la possibilità di avere un'azione collettiva, perché tu non pensi che quando c'è un problema c'è un'azione collettiva, tu pensi che quando c'è un problema c'è una soluzione di mercato, no? Quindi se stai male, adesso senza criminalizzare, è un esempio, vai dallo psicologo, se stai male, hai un problema, compri una cosa, no? E questo purtroppo è impastato col fatto che, con la tentata risoluzione, perché se tu cominci a pensare in un certo modo, e il modo di pensare è anche, cioè un po' il fulcro anche delle ideologie che cambiano il modo di pensare, come la gente che ha cambiato il modo di pensare durante il nazismo, durante il fascismo, con tutti i distinguo ovviamente, no? E quindi sì, poi il problema, sai, non è tanto, cioè le teorie ovvio che ci sono, ma l'ideologia, perché sennò è filosofia, è scienza, no? Il problema è che la teoria deve esserci fatta bene, e probabilmente c'è, ma comunque un po' slegata, per cui boh, uno scrive una cosa, un altro, però poi manca l'altra faccia, per cui se questa roba poi non si mette in atto, no? E come si fa? Per cui Marx alla fine ha fatto la vita che ha fatto, perché ha fatto una vita di merda, perché dopo alla fine non solo faceva la prima faccia, ma poi tentava di fare sto partito in qualche modo, no? Esatto, no? Ha capito cosa faceva, internazionale, andava di qua a destra, manca, ha vissuto in mezzo Europa, e l'altra parte noi non ce l'abbiamo. Cioè, peggio ancora, non è che non ce l'abbiamo, noi abbiamo ancora dei partiti, no? Che siamo convinti che stiano in quella tradizione, ma non ci stanno più. Sì, però tu cioè, pensa anche al PD, no? Certo. Ma perché tu sei indietro di 20 anni, non tu, diciamo, il sindacato, se tu perdi 20 anni, no? Poi non è che li recuperi in 2 secondi. E quindi se gli anni 90 non hai capito un cazzo fondamentalmente di come andava il mondo, di dove stava andando, che sono il centro-sinistro italiano e anche i sindacati, e poi a voglia. Cioè, poi ovviamente la risposta sono lavori di, come diceva lei, nel senso, se tu ti imposti e dici ok, adesso facciamo un lavoro da qua a 50 anni, poi 50 anni sono veloci, nel senso che Marx ha cambiato, cioè era un poveraccio che non c'aveva da vivere perché Engels gli dava i soldi, e cazzo, ha sconvolto il mondo del secolo dopo, no? Quindi questo è speranzoso da un lato. Esatto, dobbiamo trovare il nostro Engels. No, io parto da questa cosa qui, che tu dicevi, che appunto non manca tanto la teoria quanto l'azione, no? Cioè, secondo me invece è il contrario, ci manca proprio la teoria, ma non nel senso di solo una teoria critica che ci permetta di far vedere quanto brutta questa società e che abbia egemonia, anche perché quello, cioè, secondo me non è possibile, noi non abbiamo gli strumenti per avere egemonia culturale. Marx dice ideologia dominante, sempre quella della classe dominante. Cioè, ci manca una teoria per riuscire a fare questa cosa qui, mobilitare le persone, cioè per capire come si fa in un paese come il nostro imperialista, dove la rivoluzione non si è mai fatta, a fare questa cosa qui. Comunque un paese, insomma, imperialista, no? Quindi anche adesso sentivo, ad esempio, che si diceva non abbiamo una teoria che parla di come, cambiare la struttura del debito, di fare insomma delle riforme al capitalismo. Secondo me cioè, quelle teorie lì non vanno, perché in un momento di crisi del capitalismo in cui si va verso la guerra mondiale, il riformismo chiaramente non è un riformismo senza riforme, perché la base economica e materiale non permette di attuare queste riforme. Ci serve una teoria su come fare rivoluzione, perché questo sistema ci sta portando alla guerra mondiale, alla distruzione climatica e così via, e quindi secondo me proprio questo ci serve. Poi dicevate nessuno l'ha fatta, io faccio parte di un partito comunista e cioè noi, vabbè, mo sembra per dire noi, però sicuramente avranno fatto anche altri. La nostra area politica proprio nasce su questa cosa qui, tra gli anni 70-80, di fare un bilancio di tutta, diciamo, la concezione comunista del mondo, un'analisi di dove è andato il capitalismo. Il problema è che in realtà momenti come questo, dove si discute questa cosa, sono pochi, ma poi soprattutto spesso si discute, ognuno dice la sua, non si traggono delle conclusioni, non si verifica nella pratica, ecco. Cioè, secondo me è importante fare questo lavoro perché dobbiamo capire quali sono le maniere efficaci di portarlo avanti, condividerle e quindi arricchire quel bagaglio di ideologia, di conoscenza che comunque già abbiamo, che c'è 150 anni del movimento comunista. Sì, le cose vanno insieme, no? Per cui poi ovviamente se tu non hai facciamo un esempio, nel senso proprio qua a Milano, così ci capiamo. Cioè, le politiche della casa a Milano, no? Nel senso, si fanno anche gli incontri in cui dicono invito Lucia Tozzi, giusto a titolo così, c'è il consigliere di Milano in comune, sto facendo degli esempi per farmi capire. Però poi, alla fine, in una città come Milano, se tu non hai si diceva un corpo intermedio una volta, che è una parola che non si usa più, in questo caso un partito, no? Che veicola sta roba, è durissima. Per cui tu a Milano, certo, le persone fanno lodevolmente le cose, come loro hanno invitato qua a parlare, è stata una bellissima assemblea, c'è la cosa su Milano Cortina, non sto dicendo che non c'è nulla, no? Però poi il punto vero è sfondare, cioè il punto vero è fare, così secondo me è un buon esempio, fare come hanno fatto i 5 Stelle, no? 5 Stelle è una roba che è nata dal nulla, che tra l'altro c'è anche una presupposizione, voglio dire, una base teorica, non è che c'erano gli accademici lì, però è una roba che non esisteva, cioè con un po' di lavoro, però poi ha sfondato, capito? È diventata qualcosa che è entrata nel dibattito pubblico, cioè è impossibile fare le cose se non si arriva a quel punto lì. L'unico partito comunista in Italia che abbiamo avuto in Italia che ha avuto questo ruolo, ma in realtà vale per in tutto il mondo, l'hanno assunto, cioè in Italia facendo la resistenza, in tutti gli altri paesi facendo la rivoluzione, insomma, e quindi cioè, non esiste, ma esisterà e lo diventerà nel percorso per fare la rivoluzione, ecco. Non possiamo aspettare che ci sia già, questo voglio dire, ecco, perché ogni cosa naturalmente nasce piccolo, non può nascere già grande. C'è un grandissimo tema e cerchiamo la carenza in questo, no? Poi ovviamente. Perché dopo tu dici, ok, a questo punto qui, cioè come si deve fare? Quanta violenza, quale violenza usare, no? Che dopo alla fine è proprio, cioè è stato in Italia anche il crinale, perché poi evidentemente come hanno usato le violenze delle Brigate Rosse senza dare giudizi sui fatti, la società è andata da un'altra parte, cioè la società anche, volete come voi, manipolata tutto, però poi il risultato, nel senso, le BR volevano rapire Aldo Moro per fare in modo che scoppiasse la rivoluzione in Italia, ma la gente non la seguite, no? Per cui ovviamente poi anche questo è un tema importante. E poi è vero che poi probabilmente questa cosa in filosofia politica si chiama il potere costituente, no? Cioè tu dici, quando si crea un nuovo ordine nasce da un evento traumatico. Il potere costituente, che dopo diventa potere costituito, cos'è? La resistenza, la rivoluzione americana, la rivoluzione francese, qualcosa di violento. Per creare da zero un nuovo ordine sicuramente sì, secondo me. Motivo per cui l'Unione Europea non ha nessun senso, per cui cerca di fare qualcosa di costituito senza nessun potere costituente, e quindi infatti una cozzaia di roba che è. Però non ti sono, e poi non è detto purtroppo cosa può succedere, che queste crisi, se non il problema dell'attuale, che comunque il governo, non c'è un governo delle cose, no? Per cui le cose ti piovono un po' addosso, come le crisi economiche, probabilmente c'è anche l'Italia, potrebbe piovere addosso una guerra. Potrebbe capitare, cioè, non so rispondere. È molto interessante il tuo intervento, però io mi chiedo, cioè, le rivoluzioni poi sono accadute in un momento in cui c'era una necessità e, come dire, un bisogno anche fisico che riguardava tante persone. Cioè, il fatto di fare la resistenza è diventato, al di là che non l'hanno fatta in tantissimi, però era una cosa condivisa perché c'era un estremo bisogno di scegliere o di morire o di andare in Russia e morire di freddo o cercare di fermare quel regime. Ma adesso poi mi perdo nel... Cioè, io credo che veramente se noi non ci interroghiamo su come far arrivare la teoria, connetterla alla pancia delle persone, e per persone intendo me, che sicuramente non sono particolarmente studiato, ma i miei colleghi di lavoro e le persone che incontro al bar, cioè dove c'è un bisogno che non arriva ad analizzare il bisogno teorico, rivoluzionario e quant'altro, però è ben consapevole che c'è una necessità riguardo al fatto che per avere un tetto sopra la testa o ti indebiti per 40 anni oppure cioè gli affitti sono qualcosa che devi avere 4 stipendi. E allora connettere queste cose che sono molto collegabili perché fa riferimento alla stessa cosa che analizza la teoria e che sente nella pancia la persona che... Quindi io dico questo, che serve tenerli collegati. Poi tu dici le teorie che abbiamo in campo e non sono sufficienti, non lo so, io le scopro ogni volta che vengo qui che ce ne sono altre, quindi probabilmente non bastano mai, però magari cercare di iniziare a connettere questi tentativi di teorizzare il mondo con i bisogni di queste persone potrebbero dargli la possibilità anche di fare le rivoluzioni, perché il bisogno, cioè veramente adesso siamo di fronte a delle guerre che si affacciano sempre più vicine e dove c'è una difficoltà del sistema dominante che potrebbe veramente portarci al tracollo. Cioè noi diciamo sì, ci sono 50 anni per cambiare il mondo, ma nel frattempo c'è una crisi ambientale che ci dice che fra 50 anni dobbiamo imparare a nuotare bene, perché cioè, adesso per fare l'esempio stupido. Ma velocissimamente, cioè secondo me come legare la critica che noi facciamo della società e la prospettiva futura a quei bisogni e come mobilitare le persone, cioè quello diventare parte della nostra teoria, cioè dobbiamo sperimentare e poi elaborare la maniera più efficace di fare questa cosa. Cioè è quello che è successo dove si è fatto le rivoluzioni, che lì sono stati capaci di, cioè in Russia, di legare la teoria rivoluzionaria a pane, pace e libertà. Perché c'era chi aveva fame, per dire, la rivoluzione fascista, perché c'era, come dice lui, quelli che volevano menare perché avevano solo quello. È vero, però in Italia c'è percentuali di povertà molto alte, si va verso la guerra, hai detto te, il disastro ambientale, insomma, fattori oggettivi ci sono e dobbiamo trovare una maniera, secondo me proprio questo intendo sviluppare. Non ci basta la teoria. Il problema è che ovviamente la gente sta male, ma lo sa che sta male. Infatti, come vanno i voti, si vede, cioè, la gente sta male, capisce che c'è una crisi e i voti vanno sempre a chi dà un orizzonte minimo di senso, di ascolto e di senso, di risoluzione. Non importa... Non... Qua c'è un soggetto politico partito. Sì, ma infatti no, il 5 Stelle ha preso il 33 poi a un certo punto. Infatti, cioè, quando le persone lo sanno che stanno male, votano in questa direzione. C'è confusione, no? Per cui una volta i 5 Stelle, poi 38% la Lega, adesso la Meloni, non importa neanche che la Meloni abbia le radici nel Movimento Sociale Italiano, perché non è che l'Italia è formata dal 33% di fascisti, perché non è vero. Semplicemente la gente sta talmente tanto male che dice vabbè, proviamo pure questa, no? Certo, poi adesso percentuali così da sport, il 5% sarà pure fascista, voterebbe anche Casa Pound, ma non è quello il punto, non diventi così Presidente del Consiglio. Quindi cioè, i problemi sono due, questo disagio prende altre vie, no? Però queste vie non c'entrano mai il punto, per cui tu ovviamente poi 2 anni di governo Meloni, cosa è cambiato? Nulla, ovviamente lasciando da parte le questioni simboliche importantissime, e... però poi dico nella vita di... le nostre vite hanno preso un corso, non lo so, l'Italia ha preso un corso improvvisamente diverso, e questa cosa peggiora sempre di più perché la gente vota sempre per l'ultimo nuovo, no? Però poi comunque non cambia comunque niente, no? E infatti l'affluenza scende. E poi quella cosa che tu dici, purtroppo, poi sono tantissime cose intrecciate, a parte il sistema di media che non funziona, sono gli intellettuali, e questa roba qua la fanno gli intellettuali, cioè il fatto di studiare le cose, metterle in termini un po' più semplici, andarla a dire alle persone che stanno male, dire guarda che tu stai male perché c'è questa cosa, non stai male per l'immigrato, ma stai male perché l'economia XYZ, no? E evidentemente in Italia non dico che non ci sono intellettuali, ma quelli che ci sono non vanno in televisione alle 8:30 e ci vanno solo persone che fanno il ruolo degli intellettuali, cioè non vanno a pigliare i nervi scoperti, poi cioè ci va Severgnini, cazzo, in televisione. Purtroppo il problema è cercare di capire come convogliare questa, affinché la gente sta male, affinché non voti la Lega al 38%, questo, per fare questo ci vogliono i partiti. È tutto un cane che si morde la coda, perché tu depotenzi gli strumenti che hai bisogno per poter uscire, no? Hai bisogno dei partiti e i partiti sono sempre di meno, hai bisogno dei sindacati, i sindacati sono sempre di meno, hai bisogno dell'azione collettiva e nella tua testa l'azione collettiva è sempre più impossibile. Grazie per questo ottimismo, Alberto, cazzo, grande mille, grazie mille. Sì, anche perché sono le 11 più che altro. No, in realtà noi vorremmo ringraziare Alberto ovviamente per essersi sbattuto, averci parlato anche di questi due libri, del concetto di ideologia, grazie mille. Finalmente è intervenuto da questa parte, non dal pubblico. Grande! Comunque, cioè non è però buttarla in cacciara assolutamente, sono problemi che viviamo tutti i giorni, noi qui dentro, perché non ci conoscesse le tre persone del pubblico che non ci conoscono, perché non sono persone che chiamo per nome, siamo un centro sociale che tendenzialmente cerca anche con un pizzico di ideologia a prova a costruire delle comunità resistenti qui dentro, per andare super mega sul pratico, noi ci organizziamo ogni lunedì per cercare di fare in modo che almeno l'azione collettiva non vada proprio in niente, noi ci crediamo un pochino. Mattia fa parte di altre organizzazioni, ma non faremo spot per l'organizzazione di Mattia. No, quello che vorremmo in realtà dire sono due cose banali, appunto. Verso metà giugno faremo l'ultimo ufficiale incontro delle parole per dirlo, perché sa che non ci saranno altre cose clandestine lungo l'estate, chi lo sa. Sicuramente nell'idea di anche creare dei luoghi dove si possano creare saperi differenti e magari un tipo di conoscenza che possa aiutare a far riemergere un certo tipo di ideologie, quantomeno quella che piace di più a noi. Noi stiamo provando a costruire un grosso progetto che si chiama Università Popolare, che vorrebbe partire da settembre, la possibilità di fare una serie di corsi di argomento molto vario per dare alle persone la possibilità di apprendere, conoscere, sapere critico, ma anche sapere oggettivo scientifico che possa essere utile nella vita di tutti i giorni. Scusa, ho sbagliato io. Quindi niente, se volete provare a interfacciarvi con queste cose, noi siamo qua insieme tutti i giorni, lunedì più comodamente dalle 8, adesso nelle chiacchiere latere, nelle birre che ci lanceremo addosso, urlando qual era il programma migliore di quale partito comunista, potremo comunque approfondire. Tema del prossimo incontro, in cui tra l'altro è possibile che tu venga cooptato per realizzarlo. In realtà è per la prima volta saranno due parole, perché in una sola parola era impossibile sommarizzarlo. Le due parole sono fini, mezzi, mistero, dissolvenza. No, fini non quel fini lì, però se ti interessa lo invitiamo. Va bene, grazie a tutti e a tutte, buona serata!